140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Bico, Milano. Un anno fa usciva E forse sono pazzo. In un anno per lui la vita è cambiata tra rock e canzone d'autore, tra TV e Sanremo, Diodato. È stato un disco che mi ha portato tanta fortuna è stato un primo passo importante, ci tenevo a farlo e da questo passo poi sono arrivate tante cose, tantissime cose, una colonna sonora in un film, il Festival di Sanremo, insomma veramente tante belle soddisfazioni. Sono contento per me, sono contento anche per tutte quelle persone che lavorano con me. Tra l'altro un disco che è nato pieno di passioni, perché è un disco con dei testi che riportano sempre a sensazioni forti, dallo smarrimento alla passione, è un po' lo specchio di quello che eri e paradossalmente anche di quello che è successo dopo. Sì, in alcuni casi è stato un disco veggente anche. È un po' specchio, non volevo fare un disco molto autobiografico, però non ci sono riuscito per niente, nel senso che alla fine è diventato poi specchio proprio di me stesso, però sono anche contento di essere riuscito a tirar fuori delle cose molto mie, perché probabilmente l'originalità poi risiede anche in questo aspetto qui. E lo stesso brano che ho portato al festival è uno dei brani probabilmente più intimi che ho mai scritto, e la cosa mi imbarazzava anche un po', e soprattutto mi ha sorpreso il fatto che poi un brano così personale sia diventato voce di tante persone. Mi hanno scritto in tanti dicendomi che si rispecchiavano nelle mie parole. Era una cosa che non mi aspettavo assolutamente, però che mi ha fatto riscoprire anche il motivo per il quale ho iniziato a fare musica. Cioè, quando ascoltavo i grandi cantautori, quando ascoltavo i gruppi che mi piacevano, lo facevo perché probabilmente in quelle parole, nella loro musica, mi ritrovavo, e quindi il fatto che ora qualcuno si ritrovi nella mia mi rende felice. Come fai a sbattermi così, che certi giorni ho il cuore nero e sembra sempre lunedì, e la notte ha mille sguardi che si nutrono di me, poi la luce li cancella ed io ritorno a credere sia possibile ogni cosa, questa sana follia sia capace di mostrarmi, mi basta, mi porti. Citato Sanremo, cosa ti ha cambiato partecipare a Sanremo? In fin dei conti è l'ultima grande vetrina rimasta, l'ultimo passaggio possibile per farsi conoscere dalle persone in Italia. Rimane sempre e comunque il più grande evento musicale italiano, e questo piaccia o meno, e l'esposizione mediatica che c'è è incredibile, l'ho vissuta sulla mia pelle, quindi posso testimoniare. Però io l'ho voluto vedere comunque come parte di un percorso, e l'ho voluto vivere, ripeto, con quelle persone che mi hanno seguito fino ad oggi, e questo probabilmente me lo ha fatto anche vivere con le giuste, dandogli il giusto peso, le giuste proporzioni, e sono felice di come sia andata poi a finire, ma di come sta anche continuando, nel senso che lo vedo come parte di un flusso, no? E non ci fosse stato Sanremo, avremmo continuato per la nostra strada, ed è quello che facciamo adesso, continuiamo per la nostra strada con una spinta magari un po' più importante come quella del Festival. A chiederci un bacio e volerti. dimensione completamente diversa, visto che hai citato i cantautori, quel capitolo che poi ti ha portato anche a omaggiare De André nel tuo album. Sì, a un certo punto della mia vita ho riscoperto i grandi cantautori che avevo un po' stupidamente, per mancanza, per immaturità, snobbato quando ero ragazzino, anche perché da ragazzini si vuole essere un po' ribelli e quindi ascoltavo tanto rock e pop inglese, magari non capivo neanche di cosa stessero parlando, però mi piaceva quell'identità sonora forte. Invece poi, maturando un po', ho riscoperto delle radici comuni con, ovviamente poi mi viene da dire, perché comunque sono grandi cantautori della musica italiana, usano la mia lingua, e quindi è stata una riscoperta importante per me, e ho voluto rendere omaggio a tutti i grandi cantautori omaggiando quello che da tanti è considerato il più grande, no? Ora io non voglio fare classifiche, però indubbiamente uno di quelli che ho apprezzato di più negli anni, e l'ho fatto sempre per quel discorso lì, perché sentivo le sue parole molto mie. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Diodato. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.